Giulio, canale 10. Attenzione, Claudio, Claudio, canale 10. Avanti. Che è avanti. Mamma di dolci, che freddo. Questa c'ha tre stanze a letto grandi, ok? Di cui due sono matrimoniali, quindi a ragazze studentesse, donne, che fanno due in una stanza, due in un'altra, sono quattro, e una me la piazza in quella piccola, sono cinque, eh? 5 per 2 fanno 10.000, 200 euro a testa, fanno 1.000 euro al mese. Infatti, sono ragionamenti che devi fare. Per darla così, anche io preferirei affittarla. Tanto guadagni la stessa cosa, in più ti rimane la, c'è sempre il valore della casa. Ma infatti, il problema è che mi hanno sconsigliato tutti, e c'è un carissimo amico che ci ha lavorato a Tecnocasa, mi ha detto, guarda qua, ho visto bellissime prima. Dopo che sono riusciti a mandarli via, la casa era distrutta, la casa era distrutta. Io ho paura anche di quello, capito? Perché c'è gli universitari come sono, sabato e domenica non vanno in facoltà, feste, festine, si riuniscono tutti assieme, casini contro casini, questo è un condominio molto, molto, molto, ma molto tranquillo. Altrimenti stai pur certo che non ci sei rimasto io. Io non ho mai avuto problemi né con quello di sotto, né con quello di sopra, né quando io ero al nono piano, e ci abito dall'87 qua. Quindi prima al nono, adesso sono al secondo. Però mai avuto problemi proprio perché mi piace il rispetto, io do rispetto e voglio rispetto, capito? Non disturbo, non voglio essere disturbato. Quindi tu immagina ti mettendo, sarebbe un'odissea per me, perché mi ammazzano di telefonate, di qui, di là. No, no, aiuto, lascia perdere. Lascia perdere. Se vendiamo, vendiamo, e se no, una decisione la prenderemo lo stesso, fra. Ne abbiamo già parlato, quindi non c'è niente da fare. Certo. Comunque l'intenzione è di andare via, dai. Quindi lì a Montevano non me la stazione c'è, cioè, subito. Beh, lì no, non metto assolutamente niente, l'ho già detto. Adesso l'unica cosa che devo fare proprio per l'inutilizzo, ed è brutto a dirlo, insomma, però l'attività non la sto facendo più, tranne che così qualche passaggio, qualcosa in VNU. L'HF sono organizzato benissimo, però le direttive le tolgo. Così inizio già a sistemarmi il tetto, perché poi magari viene male, c'è anche roba in mansarda che sto già dando, ho liberato, eccetera. Capite? Cioè, mi voglio tenere pronto, non si sa mai che davvero venga qualcuno che la vuole al volo, io devo stare poi un mese con tutto quello che ho da fare, tra trasloco, eccetera, eccetera, mettermi anche a sistemare le antenne. Infatti abbiamo deciso con Andrea, che lo conosci, di adesso se arriva il tempo buono, penso, insomma, questo mese, se ce la facciamo, se non il prossimo, un sabato mattina o una domenica mattina, ci dedichiamo a smontare tutte le antenne sul tetto, le metto dentro le scatole e le conservo, capito? Lascio solo momentaneamente la mantova e la verticale VU. Il resto porto tutto già in campagna, poi si vedrà fare. Ma non ho nessuna intenzione di montare tralicci, balle e polvere, perché non mi interessa più niente, capito? Piano piano stai mollando tutto, eh. Ma io ho costruito l'antenna, però non so se vada bene, non so se si è accordata bene, ho rispettato le misure, però ci vorrebbe un accordatore, un rotmetro, boh, per portati lì, no? Per queste 144 e 440, non ricordo che frequenze si usa, ora. Ma lì fra, senza stare a mattanate lo gabbo, accordare, fare, mette. Ci sono quelle piccoline, la X30 si chiama, che è VHF e UHF, piccolissima, mi, non è a un metro, forse manco ci arriva, ok, perché partono dalla X30, la X50, poi la X300, la 500, la 510, la 7000, sono tutte a salire, la 30 è quella più piccola di tutte, la tech con una staffa palo palo al poggiolo, arrivi in capo al mondo. Dimmi chi la fa, che la cerco. La Diamond la fa, c'è scritto Diamond, Diamond, non prenderne altre, prendi quella, perché le altre sono imitazioni che come piove ti si riempirà qua, ce la butti. Diamond, guarda, ce l'ho io anni, perché ho la grande, la 510, e la piccolina che la uso per il ricevitore, ok, per non fare accendere tutto, mi accendo il ricevitore e ascolto da lì, ed è fenomenale, non ti dà nessun problema, non hai bisogno di accordare niente, tu la piazzi lì a posto. Io te l'appoggio. X30N, antenna di B. USB sulle 40, 45, 46 euro, va? Esatto, rifede una volta, non hai problemi, fa problemi di nulla, capito? Ti dico la 30 per non dirti la 50 che è più grandezza, la 30 per te va bene, è bianca, la metti nel poggiolo proprio, nel poggiolo, con 4 metri di cavo, una staffa, perché c'è poi il palettino in alluminio che va a innestare, non hai visto come è fatto? Lì c'è la staffetta sua, quella l'attacchi alla ranghiera del poggiolo e tu, come dicono a Cagliari, sei che minca incornata, vero pompone? Ah, non lo so io. Io ho attaccato, più che altro. Cioè, l'X30, l'X300, una o un'altra. Invece veramente bene. Come antenna. L'altra c'è, quello lì, invece siamo a casa io, la 300, tutta da una parte. Oh, io ti sento tutto impastato, fra, come lo senti tu, Antonello? Aspetta, adesso mi senti bene. Fai un passaggio più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un po' meglio, ma niente di che, dai. Come allora, questa, se non vedo bene, se non vedo male, 130 centimetri in lunga, la X la 30, questo la guardo. È piccolissima, fra, è un'antenna eccezionale che fa alla grande. Sì, Antonio, non ti sento bene del radio, ti sento tutto impastato, non so. Chi era l'altro che voleva entrare? Marco, tu sì. Adesso va meglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Sembra che sei attaccato, sembra che ti stai pompando a morire, tipo Saturno, non lo so, ti sentivo benissimo ieri. E cosa ne so io, non ho toccato niente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, guarda, e l'altro è stato poco fa con Giuseppe, non mi ha detto niente al telefono, la verità. Adesso, come va? Con cosa stai uscendo? Che microfono stai usando? Viceversa, che cosa stai usando? Vabbè, non so cosa dirti, io ti sento molto cupo, molto impastato, non so, comunque, la valutazione è comprensibile, lascia così, dove ti dico. Aspetta un attimo, se da regolare il clima, da, fermate, 2 minuti. Non solo la batteria che non si scarica. No, io ci stavo modulando, era perfetto. Oggi è tutto con tonalità tutte basse, non sento gli acuti, di solito col microfono c'è un'ottima prestazione, non so. Va bene, capito Efra, se prendi quella tu la metti e vedrai che hai delle ottime soddisfazioni, ottime perché più grande non conviene, in quella frequenza lì, più alta è l'antenna e peggio è, deve essere piccolina, capito? Quindi la 30 è proprio la migliore che c'è per quella frequenza. E quei radiali, diciamo, di massa, quando sono lunghi? Ma c'hanno 20 centimetri, sono piccolini fra, piccolini, c'ha 3 radialini in acciaio inossidabile, proprio piccolini, ma non danno nessun fastidio, perché sono proprio a distanza di quel tubo che loro ti danno in alluminio, capito? E guarda, non è ingombrante, ce l'avevo dentro casa io, dentro nella stanza, attaccata al termosifone, poi mi ero stufato e l'avevo messa su, figurati. Prezzo? Ok, registrato. Bueno, poi la dopo la proviamo, vediamo un po' come risuona l'antenna, perché il canale della banda marina dove trasmetto il bollettino, il segnale mi ha aumentato, però va meglio, poi la vediamo, dai, avanti break. Ok, ciao Franco, ciao Claudio e ciao Antonella, buonasera a tutti e tre. Sì, confermo anch'io quello che ha detto Claudio, l'X30 è così, ce l'ho anch'io, 30, 1,30 più o meno, 1,20, 1,30, grosso come un bastone di scopa, lo stilo, e radialini, 3 radialini, e il PL protetto appunto è all'interno del tubo, non prende mai chiusa, non prende mai niente. Tutto così. Va bene, dai, mi prende Franco e fa girare. Sì, Giulio, ben entrato, ben sentito. Quella buonasera. Avanti Claudio. Oh, ma sta giù, buonasera, ben entrato. Sì, te lo sto dicendo. Con quella tu sei a posto, perché guarda, io l'ho sperimentata ma da quando sono uscite. Però prendi l'originale Diamond, perché se prendi quelle, le fa la Fayette, le fa la Midland, si riempiono l'acqua, capito? No, non fa, non serve. Quella X30, che ti ripeto, in quella banda più piccola è e meglio va, perché se prendi la 50 già è troppo lunga, ok? E mi battai l'aria, fra. Un secondo che volevo dire una cosa, riprendi, fra. Ecco, avanti break. Buonasera a tutti Gianni, buonasera Franco, buonasera Giulio, buonasera Claudio. E allora, siamo durati in inferno. Ciao Gianni, anche a te buonasera, ben sentito. Fatto fare. Allora. Mi ascolti meglio adesso o peggio? Un po' più amplificato, eh. Ma va bene adesso, più chiara, sì. Non è il massimo, Ale, non lo so, ti ho sentito meglio altre volte. Non sono capito, a un certo punto, cosa devo fare? Facciamo le sperimentazioni, a un certo punto, per riuscire meglio. Non può essere che sono impastato, eccetera, eccetera, no. Mi sembra strano. Cosa devo fare? Allora scendere giù e bermi un ramazzotti per squillare la lavorazione, cosa ne so? No, comunque un po' migliorato, dai, vedi un po', io non ho problemi comunque per capirti, un po' migliorato. Avanti Giulio. Sono rientrato. Ok, grazie. Sì, allora diciamo che è un pochino migliorato, infatti è vero, però non lo so, quei giorni scorsi sta uscendo benissimo, adesso se è la stessa radio non lo so, ma probabilmente stai usando la diversa radio, per cui... perché questa lenta è un grande bel troppo, mi uscirò e va molto bene. Non capisco come mai con questa modulazione così rauca, dai, così cupa. Non lo so, veramente. Non so cosa dirti, Antonio. Va bene, dai, avanti di qua, se hai visto che sei rientrato. Va meglio o fa peggio? No, Antonio, stai peggiorando. Lasciala com'era, era così, era comprensibilissima, però non era quella dell'altro giorno che ti ho sentito che era favolosa, non so cosa è successo. Ciao anche a Gianni Rubrofetta. Aspetta, fatemi controllo, allora magari c'è qualche problema. Due minuti. Sì, Antonio, sembra che stai, che sei saturo, non lo so cosa è successo. È uno sguardo veloce, vedi un po'. Però la modulazione era comprensibile, solo che sento questa saturazione, questa compressione, non capisco. Vabbè. Avanti Gianni, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Stavo dicendo che siamo tornati in inferno avanzato. Ma ammazza il pazzarello, prima il sole e poi l'ombrello, è ancora nulla. Stavamo alla perturbazione, stavo guardando su internet. Da paura, proprio da neve, la montagna in arrivo, quindi, però, già va bene, dai, ancora è così, poi speriamo che cambi, facci un po' di caldo, ok, avanti Giulio, riprendi. Ok, sì, ero al telefono, non ho seguito molto l'ultimo passaggio, stiamo intanto a Gianni Rubrefetta. Salutoni, ben entrato, anch'io sono entrato da poco, per cui vediamo un po', prendiamo il filo del discorso, perché ero al telefono. Avanti, Franco. Sì, giù, no. Anche qua mi sai toccare accendere il riscaldamento, lo stavo già spegnendo, cioè si spegneva da solo perché arrivava subito a temperatura. Oggi invece, perché c'è anche il vento, non è solo il freddo, c'è anche il vento, così è già. Qua dalle mie parti già sta aspirando, ma dovrebbe alzarsi stanotte, a quanto ho capito, quindi speriamo che non si alzi troppo, quindi si dice. Mi porta via le tende qua. Tra, da te il vento com'è? Dove, da me? Capo. Diciamo non è molto forte qua, però stamattina era Monteoro ed era più forte, c'era anche freddo, infatti stavo vicino a Franco, abbiamo parlato e ce ne siamo rientrati a casa, perché non, a me stare così no, non mi piace. Sei in campagna, ti metti a fare fuori, ma c'era troppo freddo, capito già. E quindi abbiamo mollato Toros. Vai Franco. Hai visto quella direttiva che si vede salendo a Monte Oro sulla destra? Basta. Salendo a Monte Oro da che parte? Dalla parte però della Landriga stai dicendo tu. Io non salgo da lì, io salgo da Canica, quella di Vittorio. Ah, di Vittorio. Ho capito che fate un'altra persona. No, lì c'avete i genitori di Vittorio. Vittorio lì aveva messo un'antenna per quando appunto era lì per fare i collegamenti. Sì, sì, sì. Però lui sale dalla parte della Landriga. Capito? Lui sale dalla parte, io entro praticamente da Canica, da sotto, da dove ci sono i campi sportivi, ok? E salgo su e vado proprio dove c'è il ripetitore della RAI, lì, sotto lì. No, questa salendo all'Andriga, come dici tu, all'Andriga, salendo prima del bivio sulla destra, c'è questa antenna bassa con un tralicetto. Ci dovrebbe essere Vittorio, io so che lì c'è il genitore di Vittorio. Capito? Altri no, non ce n'è. Sì, prima di girare a quel ristorante, pizzeria che c'è, sì, sì, sì. Proprio lì, salendo a destra, ok, e scendendo a sinistra. Sì, eri Vittorio sicuramente. Altri no, non so, ma non c'è qualche radioattore nuovo, ma non penso proprio. Vabbè. Avanti, Giulio. Ma, che bello adesso, come va? La puoi fare una prova, Antonio, se non ti scoccia. Puoi cambiare il microfono, non ne hai altri. Allora, voglio capire se il microfono c'è la radio. Ah, si è cambiato la radio. Secondo gli FT. Quindi non so a cosa FT. Gli hai visto in teoria, quindi... Non c'entra niente, tu lo sai. Non c'entra niente se stai usando anche le quadribanda. Il quadribanda in AM, quel quadribanda in AM tu lo sapevi che c'è tutto cupo. È tutto messo male, c'era da fare qualche regolazione del menu, mi pare che ti aveva detto Marco eccetera, io non so se tu l'hai fatta, se l'hai toccato, non so, a me la modulazione non piace, Antonio, la modulazione che piace a me è quella che tu avevi ieri col Sadelta, poi non so che baracchino stavi usando, Antonio, lo sai, io ti dico la pura verità, ok, questa non mi piace proprio, è peggio dell'altra. Antonio, una volta se mi serve in frequenza, trappa di tutto. Sì, vabbè, dai, si scherza, senza. Dai, già lo sistemi, dai, piano piano, vedrai che già lo sistemi. Comunque già si capisce quello che dici, però, ripeto, è bruttissima come radio. Non tutti hanno la voce di Claudio Villa, sia ben chiaro, questo no, il primo sono io, non la bella. Però, per dire, è brutta la tua radio. Sistema, sistema. Avanti, Lubrafetta. Ecco, ho capito, tre apparati, il discorso è quello lì, strano, adesso meglio va, sono più chiaro, cosa ne so io, se è colpa mia, se è colpa dell'apparato, cosa ne so io. Sempre cupa, sempre cupa, il segnale è aumentato con questa radio, però la radio è cupa. E adesso guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, Antonio, adesso va bene, però è bassina, vuoi aumentare leggermente come potenza di amplificazione, il resto non toccare più niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lasciala stare così. Boh, è strano, non ho toccato niente, non ho toccato proprio niente, stavo di nulla. Mi sembra strano la cosa, cioè da ieri a oggi si è cambiato tutto, il discorso è quello lì, non lo so, forse è la timbrica della voce mia, perché sono mezzo raffreddato e eccetera eccetera, ho preso mezzo influenza, ma cosa vuoi dire, sai? No, e può succedere, cosa c'entra? Io ho spento una radio tempo fa, sono andato a accendere, non accendeva più, eppure mi ricordo di averla spenta tranquillamente dopo aver modulato, e poi non acceso più, non c'entra niente, non c'è il radio, i microfoni sono macchi, sono esauriti. Poi al passaggio dici se stai usando nuovamente il Sadelta o se stai usando sempre l'FT. Vai Gianni Lubrafetta. No, sto usando gli AIDS, sto usando, con il microfono normale e basta. Oh, lascia tutto così, non toccare niente, ok? Lascia così, va bene. Avanti Gianni. Eia, sì, adesso nell'ultimo passaggio era più comprensibile. Riuscivo a capirlo. Prima invece era incomprensibile. Questo per quanto riguarda la mia opinione, quindi adesso ha migliorato parecchio, va bene così. Bisogna che sai cosa devo fare? Scendo giù, siccome sono mezzo infranzato, mi bevo mezzo chilo di ramazzotti, almeno mi si scaricere il coso, la trachea. Buttano un po' anche dentro l'apparato, mi. Poi quando sono mello cotto, poi io ci butto la pellicola dalla finestra. Allora, avanti giù. Ok, però sta attento che non ci sia nessuno sotto, se non sia che poi si prendi la cosa, come si dice, la vacanza per un bel po' di tempo, senza qualcuno di stare in testa, non si sa mai. Non dico altro, io ho detto la vacanza, stai attento quando lo butti, perché è pericoloso. Anche se c'è il gatto sotto, è uguale, non cambia niente. Ma te ne mangi, tu devi buttare la radio dalla finestra che è stata una persona, te ne mangi. Sì, già è successo a me. Io avevo un commutatore d'antenna che l'avevo attaccato, dici della ZG, per carità, che roba brutta. L'avevo attaccato per dei baracchini, quando avevo i baracchini vintage, no, per averli tutti sotto controllo. Era malevato il povero Giampaolo Silvestro, a quattro vie, nella ZG. L'avevo messo, collegato e tutto. Ho detto così mi commuto i baracchini. Andava a commutare e a volte accendeva, a volte no, a volte commutava, a volte no. Una rima ho dovuto ribibilirsi gli adi. L'ho staccato, l'ho buttato alla finestra qua, al secondo piano. E ho sentito cabalagliata giubiliare. Succede? Ma quelle cose mi sono commutato l'antenna, ce l'ho anch'io, se ricordo bene, o sono già buttato, perché non funziona? È nuovo, nuovo! Però era una porcheria, è veramente una porcheria. La ZG ha fatto uno strumento che fa veramente pena quella quattro vie di uscita. No, non è possibile. No, non è possibile assolutamente. Ma comunque, non lo usiamo, se ne fa una pizzata, non è così importante. Va bene, dai. Avanti, Franco. La ZG ogni tanto qualche porcheria già la fa, anche qualche accordatore piccolino l'avevo preso, mi ricordo che funzionava malissimo. Questo è un po' di TM1000, il 999, forse quelli funzionano, no, il TM1000, il 99 forse era un po' scarso. Un po' accorda bene, dai, così è claro. Sì, guarda, io strumenti dentro la scatola ne ho un paio, c'è appunto il 999. Sono della ZG, strumenti della ZG, c'è anche un 509 della ZG, e ti dico che prima di mettere tutti dentro la scatola eccetera, li avevo provati tutti, sono tutti funzionanti al 100%, alimentatori della ZG, funzionanti eccetera, ma i commutatori d'antenna che ha fatto la ZG, credetemi, una porcheria, mi ricordo povero Giampaolo, poverino, mi aveva telefonato, ma tu che la vuoi vicino al produttore, se non funziona più nulla, no, qui. E lo sceglio, non mi stavo togliendo piedi neanche io, e tu Giampaolo, ci esce qualche problema l'antenna, ma questo commutatore, sì, ha sempre funzionato, se faccio la prova, tolgo il commutatore e metto l'antenna diretta, aveva allora poverino il 140, metto l'antenna diretta, una schioppettata, cioè c'era praticamente questo cacchio di commutatore, ma andava in corto l'antenna, una cosa pazzesca. Secondo me non gli bruciava l'apparato. Lui poi non modulava perché appunto non dice, riceveva basso e usciva basso, era un grido, quindi mandava in corto dove c'era l'attacco dell'antenna, non so, io poi non l'ho mai aperto, gli fa una cosa, mi porta di tiro e poi dammi, me lo porto via io, e portandomelo a casa io, che era appunto quello che mi aveva dato lui, faceva la stessa cosa, ma io non ci ho messo 5 minuti, 2 minuti ci ho messo, l'ho staccato e l'ho fatto volare dalla finestra. Ma ci consumano le piste dove cammina il selettore, capito? Sicuramente ci consumano quelle piste lì e magari tocca uno con l'altro e ti manda in corto tutto, un casino. E infatti mai più ne ho preso. Io ce l'ho quello della Comet commutatore d'antenna che tra l'altro non uso neanche perché c'ho la T230 che fa da commutatore d'antenna a tre vie, fa da cordatore, fa da rosmetro e da wattmetro, quindi non me ne faccio niente. Le due radio, il 430 e il 440, sono collegati lì e li commuto su antenna 1 e antenna 2. Nell'antenna 3 c'è il baracchino, capito? Quindi mi va bene quello senza nessuna cosa in mezzo ai piedi, capito? Ma Ghiscio è una borcheria, mi non l'attaccami, ma tu giù lampa zero blu più, riprende e fai girare per Gianni. Ok, sicuro se c'è l'attacco, ma vuoi scherzare? Tanto che sono provato, cosa vuoi che ti dica? Guarda che commutavolo dove non c'è l'antenna e ti sentivo lo stesso, ma tra l'ora sono provato così, sono preso dove sono a parte, ma mi sembra che non mi ricordo bene se ce l'ho buttato o se ce l'ho ancora, devo controllare, vabbè, comunque l'altro è già in dispetto, il femminile quello ce l'ho, ha due strumenti, quello grande, quello ce l'ho anch'io, ce l'ho come accordatore d'antenna, quello già funziona bene, dai, ma quello costava anche un bel po', è 110-120 mila lire allora, perché quando c'era la lira, quello già è discreto, diciamo che non ci sono problemi, poi quello ha anche la possibilità di due antenne, per cui va bene, quello già è discreto, dai. Illuminato anche, tra l'altro i quadri sono illuminati, cioè gli strumenti sono tutti e due illuminati, sono grandissimi e illuminati. Avanti, Lubrassetta. Eia, una curiosità per Franco, vabbè, mi pare di capire, cioè mi sembra che insomma ci conosciamo da un po' di tempo, però siccome di Franco ne conosco tanti, sto cercando di capire bene chi sei, vabbè abbiamo qualche amico in comune, però ancora ho una visione sfocata, se mi puoi indirizzare meglio, insomma, se riesci a darmi qualche altro suggerimento, così giusto per farmi un'idea più chiara. Avanti Fra. Ehi K, ti ricordi Aldo? Non ti dico altro, Aldo te lo ricordi? Aldo il restauratore. No, eravamo insieme, io e Aldo eravamo amici, quindi siamo conosciuti lì. E tu eri con Marco Palolo. Orazio, l'uomo venuto allo stadio, ti ricordi? Cazzo, me le raccontate tu le tue storie. Aldo, sto cercando di fare mente locale. C'ho un po' di confusione in testa, mi. Aspetta, chiedo scusa agli amici, non ti posso dire altro. Prima che avevo una panda nera io, con l'antenna sempre. Ah, tombola. Ehi, ragazzi, quanto tempo che è passato. Ok, adesso è tutto ben chiaro, adesso è tutto molto chiaro, ok Fra. Ho capito tutto, grazie mille della dritta. Vabbè, adesso ci siamo, dai, identificate questi dirigi. Va bene, ok. Dai, proseguiamo, avanti qua. Un attimo qua, devo uscire un attimo, dai. Claudio, scusate, devo uscire, rientro dopo, dai. Riprendi qua. Ehi, Kappa, ciao Giulia, siamo qua. Avanti qua. Ehi, avanti giù, va bene. Beh, ci aggiorniamo dopo. Ok. La memoria è così mio. Oh Gianni. A me volte dico, ma ti ricordi, fammi memoria. Dimmi qualcosa di più utile, no io non ci arrivo, vabbè. Ok, vediamo Antonello intanto, si è messo a posto tutto, Antonello? Tutti svegliati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Lascia così, già va bene. Va bene, lascia così. E me doppio root, la memoria è come ti dicia Guido, inganna. O è Udo e sei canna? Sì, buonasera a tutti. Ciao Ciao Gianni, doppio rum, avanti Gianni, lo profetta. Ma è bastato l'appiglio giusto e niente, insomma. Ti ho sgamato subito, come si dice. È bastato il riferimento giusto e niente, adesso tutto risolto. Mi fa piacere. Adesso sono più tranquillo. Buonasera Gianni, ben sentito. Vento dalle tue parti, ce n'è. Sì, a Puglia. Vento è freddo. Con le mie parti sono le tue, non è che ci vuole essere lontani. Cappagata. È vento freddo, c'è, ma la sono stato in terra per la freddo. Avanti fra. E allora ancora è tempo suo, dai, aspettiamo questi ultimi colpi di coda già. Gianni, doppio rum. Ascolta, beh, cane, come sta? E già sta meglio, dai. Sta meglio. Hai visto, piano piano, dai. Non so se rimarrà traumatizzato, non lo so, se i cani hanno una memoria. E ce l'ho così. Mi sono considerato che due o tre minuti che non dorme. E molta città, dai. Si ha, cambia letto, va sul divano, si mette in terra, e non è molto traumatizzato, dai. Ma già li passerà piano piano, dai. Solo che la notte non l'ho visto, che lui è da primo o con tutti i 73 ore, l'hai fatto di moto. Tutti colori in strada. Cioè, insiste e persiste, Chisto. Dai, con la mucciola, cazzo, vedi che la mucciola col cane, capito? Ti fa passare i calzini col cane, stai attento, che non sono tutti bravi come te, non la sto a denunciare. Non è che da fare, tutta gente, già lo sai che gente è là. Lasciamo perdere. Penso che ti sta per giocare. Adesso non mi interessa. Certo, avanti. Alessio, ci sei? Sì, sono qua, dimmi tutto adesso. No, no, riprendi. Questa ramazzotta bevuta ce l'abbiamo. Ma adesso non capisco più niente io di questi microfoni, a un certo punto. Mi commento 4, ma meglio adesso. È così. No, prova come ti ho detto io, metti mezzo bicchierino dentro l'apparato e togli i coperchi, ho notato sono 3 vizi, dai. Ah, vai, non ho capito proprio niente, la verità. Allora che non so la voce mia, che è rauca, perché sono raffreddato, ho preso freddo ieri, sono sentato a quella, cosa non è possibile. Asco, questo mi arrivi più basso, poco fa di 9, così sei 7, però è la radio che un po' che ti frega, dai. Magari come dici tu sei intasato. Avanti Gianni. Ehi. Un po' troppo deve essere che ha bevuto stasera. Ah, te va bene il culo, lì. No, fate la bravi. Antonè, stavo dicendo, ma la potenza molto alta ce l'hai, prova che sia anche la potenza che sta facendo, prova a abbassargliela un po' la potenza, qua sei 960, come sempre, prova a abbassare leggermente la potenza. Aspetta un secondo. Non mi faccio stare regolando 1, 2, 3, 4, 5, 6, sta regolando. Servizio è che è quello lì, anche perché ti porti appresso, non giro il rumore di alternata. Non so se gli altri hanno percepito. Rifammi il passaggio abbassando la potenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, questo è al minimo. E così sono al massimo, qua la porta. Sì, al minimo va molto meglio, è più chiara la modulazione. Mi sembra strana la cosa, ora, 1, 2, 3. Lecca, c'hai? Ma sento anche un rumore di alternata, io so, ma dimmi tu. Cioè, ieri era una cosa allucinante, bellissima modulazione. L'alternata la sento anch'io. Avanti Gianni, lo profeta. Kappa, confermo anch'io, leggera, passa, ma sotto, quindi Antonè, lo sento anch'io. Ma il Galaxy si sta usando di nuovo, Antonè. E sai quell'alternata che fa il Galaxy, no? Quel quell'alternata lì. Per stessa alternata c'è. Aspetta un secondo, sto usando la 87, due minuti. Ma Bugattina, metti quella bella che c'hai, con Superstar, cos'è? Ma Bugattina, il 87, è tutto un rumore, cazzo, boh. Se ti faccio sentire la mia, 87 è una favola, lì c'è tutto un rumore, che boh. Vabbè, fra, uno si chiama Gianni, ed è Gianni Dubrofetta, chiamiamo Gianni Profetta Gianni, a doppio rumo lo chiamiamo doppio rumo, se no rilanci a lui e riprende Gianni, ok, doppio rumo riprendi. Sì, allora. Mi sono svegliato adesso, sto facendo una pinicchia, sono ancora profumato. Il freddo, cavolo, che c'è più, per carità. Devo uscire, ma non aggiungi una gara. Non fa che la testa fa più. Aspetta, guarda quanto è la temperatura sta, se aspetta. Questo freddo. 10-11 gradi mi dà. Vabbè. Allora, ma cambia la storia legale, sì o no? Oh, Gianni Dubrofetta. E chi lo sa? Non se ne comprende più nulla. Bobo, ora legale o meno. Insomma, è tutto un apurotto. No, già si sente la differenza, a voglia che si sente la differenza di temperatura, soprattutto quando si alza il vento così. E niente, no, è tutto grigio, va a caricare. Poi dall'altra parte lo stesso, non preannuncia niente di buono. Speriamo bene per le antenne. Che antenna hai messo adesso, perché hai cambiato? Non ti ho capito, fra. Se hai cambiato antenna. No, per adesso c'ho sempre la stessa. Ma già il solida non dovrebbe dare problemi. Il tubo è abbastanza grosso, quindi sono tranquillo. E l'antenna cosa c'hai? C'ho una veicolare per il momento. Sarà alta 1,70, 1,80. L'ho attaccato a un palo. Sembra che vada bene. Claudio, guarda un po' adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Abbassa l'amplificazione un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma qui vai bene, il segnale è un po' basso rispetto a prima, però la radio è buona. No, è strano, ieri ci va bene, oggi fa schifo, cazzo. Vabbè che sono raffreddato e ho preso freddo, ma a un certo punto, guarda, passa, guarda, sai cosa faccio? Scendo giù al bar, mi piglio 3-4 lamazzotti, mi sbronzo, a me la esco meglio, esco più appiccicato. Prova a vedere, Claudio, sì. Vado, si è allontanato, proprio a Roma. Sì, la profeta in realtà c'era un'antenna, una di quelle antenne di canale a pesca, basta preparare la una e ci mette. E io sto usando quella, Gianni. E appunto, chi non sa come si fa il coso, si compra il materiale e si fa, tanto sono antenne che vanno bene. L'unica cosa che ci vuole è la canna da pesca, poi il materiale è già una cavolata, ci sono un paio di euro di spesa. Ma esterno chi non l'ha messo? Sì, esterno l'ho messo, sì. Gianni? Sì, non lo occupi come l'hai isolato, non lo so come, io non ho mai fatto la verità. Inizia da su, diciamo, dalla punta col cavetto in rame, dai, un filo di rame isolato tranquillamente, poi va saldato, certo tutte le saldature che ho fatto sono tutte isolate, vulcanizzate con il vulcan. Oggia, ma cos'è fatto là? Se più veloce la luce, cosa ha fatto il corso per l'infermiere per fare le punture? E allora, ho fatto il corso per velocizzare. Io questa vera come mi ha ascoltato adesso. Adesso è a posto, guarda, per lo meno penso che sia a posto, non lo so. Guarda un po'. Ah, c'è tutto così, già va bene, dai. Un attimino di bianco, arrivo subito, ragazzi, un secondo solo. Questo che ha apparecchiato. Non come le sette. Solo perché la portate senza parlare. La voce ne ha fermata adesso. Mi sente solo la voce del televisore. Ok, va bene adesso sì, tutto a posto, non è che c'è nessun problema, no. Posso anche sollevare allora. Aspetta un secondo. Ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non c'è niente, va bene. Per me era meglio prima di fare di sollevare. Vabbè, ammazza, quale problema, non tocca niente. Mi può proprio ascoltarle, non è che... Va bene così? No, era meglio prima quando il segnale era più basso. Prima gli arrivavi un segnale basso, però la radio era migliore. Da me però perlomeno, Ti accontento subito. Non tocca niente. Non fa più. Si è incasinato il baracchino. Sai cos'è il problema? Aspetta, si è incasinato il baracchino. Sempre smanettando, stai boh. Ti prendi il profeta. Aspetta. Due minuti. Eccolo qua. Va bene adesso. Per me la radio è migliore così. Ok, adesso è a posto. C'è un casinato il baracchino poco fa. Anche se l'ho risultato. Anche se il segnale è molto basso, non so con quanti watt stai uscendo adesso. Non lo so la verità, se non lo so. Comunque sia. Guarda attraverso, vedo te. Però migliora il segnale ma peggiora la radio. Non lo so cosa dirti. Qua. Ma non lo ti dica io. Cosa faccio? Ci metto un nero che ci metto a posto mio. La mia cosa ce l'ho così io. Sono rauco perché ho preso freddo mio, non hai capito? C'è una voce che è, come si dice, messa male me. Come se avessi avuto un coso, una busta. E allora sarà quello, quindi. Non c'è uno, come si dice, un'altra persona per farla parlare a casa tua? Sì, adesso ci metto un negro. A chi? Che è il discorso, chiaro? Oh, yeah. Scusate un attimino, mi assento due minuti, poi rientro. Ok, a dopo. Avanti, Gianni. Gianni, tu solo doppio room, c'hai solo apparati 27 o hai anche portati lì, roba così? No, ce l'ho fatta 27. Ah, ok, dai. Non per fare una prova, visto che tu sei vicino. Portato io, ce l'ho fatta 27. No, quelli 144 e 440, dai. No, dai, io ce l'ho. Un'antennina, volevo provarla, a vedere come sta andando. Che il canale del nautico, diciamo, dove trasmettono il bollettino, si segnale da 3 è passato a 4, rispetto all'antenna che avevo prima, dai. Però volevo provare gli altri canali, quelli di PMR, più o meno, no? Per vedere come riceve, come trasmette. Ma PMR? L'LPD non l'ho usata mai quella frequenza lì. Questo che ho preso è PMR, che ormai è già vecchio perché ormai c'è il DMR che è in digitale. Poi Marco fa avere prima si usavano, come si dice, fare ascolto, circuituri. Adesso non si sente più nulla, no? Tutto quanto criptato. Ecco, K, codici, avanti, sul caffè. Mi ero dimenticato la caffettiera sul fuoco. Bruciato il caffè? No, meno male, tutto a posto. Quello è poco. Io una volta ho fatto il caffè senza mettere l'acqua, se mi sposa la caffettiera. Ho aperto un'età per vedere se stava facendo il caffè, e tu mi hai dato il caffè in faccia. l'acqua, non ho capito. Io ci ho dimenticato di mettere l'acqua. Come fa a esplodere senza acqua? Esplosa perché la pressione ha fatto esplodere. Perché il bambino. C'è l'aria calda tramite il caffè, non lo so, non riesco a capirlo. Il caffè è uscito, il caffè senza l'acqua. Capito, mi ha preso la faccia, sta peccata, sotto le vecchie del corpo. Beh, la macchina, no, io pensavo che scoppiasse intasata, però con l'acqua dentro. No, il tappeto alla pressione è scoppiata, a casa di mamma è scoppiata, si è fatto un buco nel soffitto avvicinato, si è intasata la... c'è la valvola che sale, no? E si è intasata con la vita. Tutto che mamma rimetteva sempre un filo, cercava sempre di uscire per farla, eh. Eppure il giorno, meno male, non era in cucina mia madre, sennò l'aveva mangiata una. Infatti oggi, perlomeno è quella che lo odio, c'ho 20 anni anch'io la pentola qua in casa, c'ha una valvola in gomma, male male che va la scoppia quella lì, parte quella il tappino in gomma, là. E anche io ce l'ho, io mi quando prendo i polli freschi un paio di minuti così e sono già pronti. Sì, sì, è vero. Sì, avanti, Lubero Petta. Sì, bene, bene, quindi Claudio è sparito, Giulio è andato a fare roba, bene, bene, c'è anche Antonello, adesso sto cercando di riordinare le idee, mi sono distratto un attimino, bevo un caffè e niente. Volevo dire un'altra cosa e me ne sono dimenticato. Vabbè, appena me la ricordo ve lo dico. Avanti fra. Dai, prendi il caffè tranquillo adesso, dai. Appena qui ci richiamo. Il caffè è un piacere, se ti ritorniamo che piacere è, così è doppio lungo. Il caffè, cavolo, se non lo puoi più tranquillo con calma, una volta il cavolo per mettere il trauma e se non metterci anche la mano, tu ci viene la no, guarda, la grappa me l'aveva fatto, che è ancora peggio perché poi ti manca il respiro, andare a respirare perché è un asmatico. Ma io me l'ho vista tutta, peccato, non ci ho più a respirare, ma esci pure dal naso, e tu ti depura, non ci ripura, cominci a fare cose. È una cosa tremenda, sono pochi mesi, però fa meglio per lo toccare. Io faccio quelli che si ascolto, anzi quelli che si ascolto, questi che si alzo, vado a prendermi la guida per fare il gregarismo e me lo esco meglio di radio. E ci sentiamo fra poco, va? D'accordo, a me lo esco meglio. Arrivo un po', un ponce, altro il ponce, comunque c'ho mal di gola, c'ho coso, mal di petto, di tutto c'ho, guarda, per carità, guarda, non vola neanche, guarda, ci vorrebbe, sai cosa ci vorrebbe, una patata di coso, di, ma, di negra, più che altro, sai come ti passa tutto? Ah, sei femmina, sì, dai. Ah, ti fica negra una base di ala ci vorrebbe, qua, la verità, che è meglio, che ti fa passare tutto stasera. Un po' di acqua fritta con miele, ci metti, sciolto, e dormivi caldo caldo, tipo sciroppo. Se così dove andate a me ne beso, sai come me ne beso? Lascia perdere, guarda. Lo sai che l'unica cosa ho fatto io, ma dico tempo fa, mi sono preso una di quelle bottiglie di vino che c'era lo spin, quello filtrante, me lo sono bevuto tutto, mi sono messo a letto, in una mattina non c'avevo più un cazzo, per una settimana, e non più. Io adesso sono già 2 giorni che soffro di dolori ai fianchi, dietro, mal di petto, mal di gambe, ginocchia, quindi non so cosa diavolo fare. E ho preso già 3 bustine in 3 giorni, figurati tu. Muscoli e magari. Sai cosa devo fare io? Fammi la mettere in culo con me, sennò forse è meglio. Lui trova sempre le cose strane. Sempre nelle camere di mezzo, c'è Ciro. Sarebbe l'unica medicina è quello. Magari, cioè, non senti più gli altri dolori, magari? Ne avrai altri. Non senti dolore il giorno prima, ma domani senti come si c'è, il calore della goduria, perché non senti più niente, cioè talmente i dolori che non ci sono più, è come mettere il ghiaccio sulle cose. Oh, e come diceva Paletto, hai caro. Scusate, ma canale poco questo. No, panografico. È il canale Burnich. Oi. Ah, vediamo un pochino quella dice Gianni, sta per preso il telaio. Sì, ottimo. Ottimo, ci voleva. A svegliarmi un attimino. mamma mia. Anch'io adesso ho sentito l'ultimo passaggio delle camere di mezzo e niente, vabbè, in questi casi ci vuole una terapia d'urto, come si dice. Sì, soprattutto sì. Io stavo facendo bene e oggi mi sentite male. A un certo punto ci vuole qualcosa per bocca, non per culo. Oh, Ale. Dimmi, sono qua. Lo sai qual è il mese preferito dai gay? L'agosto. Capito. Poi la prendi in culo, non ti conosco. No, è il mese entrante. Allora se siamo fregati. Oh, via. Love your room. Ehi, ma cosa? No, sono qua un attimino che c'ho gente. Un attimino, già arrivo subito. Passa il volume allora. Oggi non da nascondere io. Devo lasciare proprio niente. Oggi non da nessuno. Ah, ma è così, se anche a leggere le gente di camera di vino. E chi? A lei. Ah, già siamo grandi vaccinati, no? Non è frega niente. No, pensavo per quello che stavo parlando, no. Minati da, un bel. Non ci io, no? Fai genio, segna. Va bene, dai, un attimino che chiudo questa cosa e arrivo subito. Dimmi tutto, io sono qua. Allora, che cosa fai come cura? Ma io direi... Un po' la voce che tu sei nuovo la chiamella. Caldo, senti lui. No, sono andato con la vera nella verità, non sto scherzando. Adesso magari lui ha piatto per scherzo. No, sono d'alto. Quindi, a un certo punto, ho preso freddo, c'è un mal di collo, c'è un dolori articolari, fino alle gambe, le ginocchia, addirittura tra le gambe. Quindi figurati tu. Ho preso freddo ieri, e tanto meno oggi, quindi figurati tu. A un certo punto, cosa ruba? Ma dove è resta anche su così? C'è un dolore alla testa del femore, a Roma, non guarda che non riesco manco a camminare. Qui è alla spalla, sotto dove sotto la spalla dove c'è l'attacco del braccio, tutto dove è attaccato il braccio, nella spalla, nella scapola. Cambia, soprattutto quando hai avuto operazioni, roba del genere, il ginocchio vuol dire che è stato operato al disco, se ne risetta. Col piede avevi risolto lo più lungo? Ma il piede è chiuso adesso, però risolto è la parola grossa, è chiuso, però c'è sempre questo calo che si forma, quel calo non deve esistere, io sto aspettando un po' per mettere il calico, per vedere se le persone che sto calo si fa la meno, perché guarda, adesso rientro il 18, 18 finisco le ferie, avverto il 19, mi sono preso tutte le ferie che c'erano, non me le sono prese, di modo che potessi riposare. Il giorno della festa del papà rientri. Esatto, sì, il giorno della festa del papà. E vabbè, se poi darvi qualcosa su piazza e magari cercate un tipo di pensione che fino a quando arrivo sarà preso le bellezze, perché serve per un anno, che non è completo. Volevo dare una pensione per dire fatto da 1000 euro e poi vado a scalare ed è il 2% di me. E tu da questi soldi che ti dà la vita mi piacerebbe bravo a formare con i figli, ho capito? Ma non è così, a me non mi piace queste cose qua, no? Io devo avere una sicurezza, voglio lavorare e avere le opinioni. Non ti convince assai, da? Queste cose, queste agevolazioni strane. Va, contagiando mi sta Alessio. Avanti, un profeta. Insomma, ce ne stanno sette di tutti i colori stasera, là. Ma va bene così. Va bene così. No, mi stavo guardando un altro piccolo baracchino che c'ho, che volevo provare, che ho staccato da un camper. Però c'è il commutatorino AM FM che ogni tanto si impalla e non commuta. Adesso uno di questi giorni prova a smontarlo e vediamo un po' cosa ne c'è fuori. Sicuramente infatti sono i contatti consumati. Un po' un WD-40. Quello è troppo aggressivo. Si scioglie tutto. No, è praticamente il commutatorino, il pulsantino, quando lo spingi, non rimane giù, praticamente torna su. E quindi praticamente sicuramente si è rotto qualche dentello, qualche meccanismo. E quindi è come se sia diventato un pulsante, capito? Cioè se io lo voglio tenere in AM lo devo tenere schiacciato, oppure ci devo mettere la punta di uno secchino. E non fa più lo scatto di blocco, dai. Tipo una penna a scatto. È capace che c'è anche qualche grado di polvere che non lo fa trovare indietro. Però va bene per me. Non dico per contatto, ce ne hai, o anche ce ne ci va bene, quello va in. L'avevo già, quando l'avevo smontato l'avevo aperto, l'avevo soffiato con un po' d'aria compressa, insomma, ho cercato di vedere che cosa aveva, ma sicuramente è proprio sballato. E quindi le volte che lo attaccavo praticamente ci mettevo un pezzettino di scotch per tenerlo acceso. E niente, adesso magari ti do una controllata più approfondita, provo insomma a dargli una smanettata, vediamo un po' cosa succede. Che apparecchio è? Che apparato è? È un Midland, un 40 canali, molto, molto sottile, praticamente c'è il cambio dei canali anche sul mic, è molto sottile, ha solo il display dei canali verde e basta, col commutatore AM, FM, volume squelch, molto semplice. Io arrivo subito, 10 minuti di Corex. Ok, Ale, siamo qua. E invece questo che stai usando adesso cosa è? È un veicolare, un 40 canali degli anni 70, sarà fine anni 70, primi anni 80. È roba giapponese di quell'epoca, Asahi, cioè anche questo molto semplice. E questo era, anche questo era dentro un camper che è stato abbandonato. L'ho smontato, gli ho dato una spolverata e l'ho attaccato. E vedo che insomma funziona abbastanza bene. Ma cosa? Non becco? Doppio room, non ti ho capito, riprendi. Ho detto, non me lo auguro, ho preso un zinc, ho preso tutti questi camper che smonti la roba. No, è capitato in campagna che praticamente questo mio amico ha fermato un camper e ha levato praticamente, stava levando le cose buone che c'erano dentro. E mentre lo stavo aiutando a smontare ho visto che nel cassettino c'era il baracchino piazzato, mi ha detto guarda non me ne voglio nulla, piglia a tiro, e ho staccato il baracchino e l'antenna, e insomma una spolverata e l'abbiamo acceso. No, esce bene qua. Dimmi com'è scritto questo, com'è? Asahi, com'è? Ah, S-A-H-I. Provo a cercarlo se lo trovo in rete. Vai, un cimelio. È il modello, che modello è? No, non c'è nessun modello. C'è la marca, lo Smither, che non è molto precisa, a dire la verità. Il volume è lo squelch, basta, non c'è altro. No, c'è il segno di una targhetta che è stata strappata. E quindi è presente quando stacchi l'adesivo che rimane la traccia sotto. Dietro c'è l'attacco del PL, l'attacco dell'altoparlante e basta, insomma, non c'è altro. Oh, non lo trovo lì in rete. C'è un apparecchio di chiarezza. Così non ce ne più. Capace che a volte ce l'ha, perché a volte ne ha tantissimi di questi apparecchi. Se ce l'ha la più vecchia, la più nuova. Non lo so, o magari non è quella la marca, magari c'era qualche altra tabletta. No, la marca è scritta sul frontale, cioè è scritto così. Ti ripeto, è molto fine anni 70, anni 80, cioè la grafica, lo stile delle manopole, l'ho aperto dentro, il tipo di costruzione risale più o meno a quell'epoca. Sì, anche i miei sono di quell'epoca lì, questo che sto usando lo stesso c'ha 40 anni, no, sì, una quarantina d'anni c'ha. Ma anche quello lì è un veicolare o è un fisso? No, è un veicolare, anche questo lo piloto con un alimentatore da 10 ampere. Perché qua arrivi bene, anche la radio è ottima, il segnale è più che buono, pensavo che fosse qualcosa di più grosso. No, diciamo che è un buon microfono, è uno Shure che costa quanto l'apparecchio, dai. Il microfono fa sempre la differenza, poi hai detto che è uno Shure, quindi scelta ottima. Adesso non so quali siano i gusti di doppio room, avanti. No, io lo stesso ho usato un microfono da base, molti mi hanno chiesto ma non vado sicuro. Cosa è il tuo microfono? Che marca è? L'unica cosa che smette un po' l'eco troppo forte, a volte io non capisco, se lo abbassi un po' è una cosa micidiale, molto molto bella la radio. Ecco Master Plus. Se io abbasso l'eco, si abbassa anche la radio, guarda, adesso l'ho abbassato. Ma io ti capisco meglio, forse perché siamo vicini, capito? Ciao Gala. A quattro poli, Sì, c'è l'attacco dell'asso. Quindi dovrebbe andare bene anche su questi apparati qua. Io sto usando questo è un Samurai, però è uguale al Galaxy, al Super Galaxy, che è molto simile a questo che sto usando adesso. Questo è quello che si sposa di riportare. Già sa che è però questo qui, infatti, io passano a scambio, là, perché questo ciclo mi ha fatto. Ma secondo me è meglio questo che stai usando, va? Sì, c'è stato. E adesso mi ha salvato. Non è una di questi? Come Dio, ma non è più. E funzionano bene o li ha tutti manomessi? Non lo so. Non mi pare che facciano bene, sto cercando uno per questo valvolare, che c'è il microfono suo, che è il suo, Dio, è della Apache, quel microfono non è proprio il suo. Il valvolare è un Gemitronic, anni 50-60, non lo so. Sì, l'ho tutto sistemato, un tipo lo stava vendendo insieme a aspirapolvere e cose varie, e gliel'ho preso, dai, con pochi euro. Se vuoi lo attacco, l'unica cosa è sicuramente c'è qualche condensatore scarico, un po' di alternata, oppure il microfono che non, Non è un granché, perché sento un rumore di alternata. Come metto invece la mano sull'apparecchio, sulle parti metalliche, va via, esce pulito, dai. Sto pensando che non sia, come si dice, la calza del microfono. Ma io non ne ho qua, ma hai capito? Non so dove attaccarlo, ma dovrei mettere un picchetto giù in giardino e portare su un filo. Arrivato ciò. Dove l'attacco? Dove è la massa del microfono? Non so se lo trovo dentro. Attacca la massa del microfono, qui. Sotto. Ciao, Cla. Sotto. Perché? Cosa ti innesca? Ma non sempre, Gianni. Può essere anche dentro di radiofrequenza, dall'antenna, dal posto in cui sta trasmettendo, o cosa c'è davanti, vicino. Non ho detto, guarda, io ho 4 invece 60 qua, te li uso tutte e quattro, anche se metto al massimo non innescano, perché io attaccato alla parete dietro dove ci sono le basi, Giulio già l'aveva visto, c'è una piastra di rame bucata, tassellata a muro, e lì escono tutti giallo verdi attaccati alle radio, però stiamo parlando di HF, non di baracchino, capito? Cosa c'entra? Non è questione di massa, non è questione di roba di alimentazione. Sicuramente l'alimentazione che arriva alla radio c'è qualche dispersione, lì devi mettere qualche toroide, allora forse riesci a eliminarlo quel problema. No, prima volevo provare con un altro microfono, è che rispetto a questo qua, come dici tu, c'ha le polarità invertite, anche se l'attacco è sempre uguale a quattro poli, però non posso provare questo amplificato, dai. Ripeto, il microfono era tutto distrutto, io l'ho smontato, l'ho incollato perché i fili erano staccati dalla membrana in alluminio, era tutta schiacciata. Sicuramente il microfono non è un granché. Già, quello si può fare quando sull'MC60 si può fare, che c'ha, perché si fa? Perché l'MC60 c'ha l'alimentazione diretta dalla radio, quindi tu non fai altro che mettere a massa il piantone del microfono con l'alimentazione della radio che prende dal connettore, e allora va bene, ma in quel caso lì no, lui c'ha la batteria, quindi è un altro tipo di sistema, secondo me non serve a niente. Dovresti provare nella parte alimentazione se c'è qualcosa da poter ponteggiare, boh, non lo so. Ma aspetta, la batteria c'hai nella sede, fra? No, il microfono che ho io è un patch normale, li hanno abbinato questo microfono qua. No, ma non è un microfono preamplificato da tavola? No, è uno da palmo. Ah, microfono da palmo, e batteria c'ha, interna, esterna? No, non c'ha nulla, è un microfono normale proprio, semplicissimo. Però mi ricordo che c'era la parabola staccata dai fili, quindi non sapevo se i fili volessero incollati o saldati a stagno. Io li ho incollati, ho visto che funziona. E allora già, se è un microfono normale, io avrei la doppia alimentazione come il 60, capito? Connettore al piantone, connettore alla radio, allora sì. E poi pure che sia la capsula difettosa che faccia, che prenda questo rumore qua, non so, pensavo che era un microfono da tavolo, perché a volte nella sede della batteria, se la batteria tocca al piantone, vedi che è isolato il piantone, cioè la base della preamplificazione è isolata dalla sede della batteria. Se per caso ti dovesse capitare, mettile un pezzettino di coso o di nastro isolante, oppure un pochettino di cotone, e poi fai entrare la batteria dentro, all'interno. No, sullo sciur la batteria è abbastanza isolato, dai, c'è quella specie di felcro che tu lo attacchi, la strappo e poi la spingi dentro, quindi rimane isolata dai lati, dai. Esatto, esatto, così deve essere, perché il 3 più 3 fischiava, non capivo cosa era. L'ho provato su tutti i baracchini con la chiara sul suo attacco, fischiava tutte le parti. Fischiava, innescava più che fischiava, c'era questo fischio, questo innesco. Ho tolto la batteria e mantenendola con la mano, quindi al di fuori, non fischiava più, non innescava più. E ho detto, ai ai ai ai, allora la batteria l'ho praticamente isolata dalla sede, evidentemente toccava da qualche parte e non l'ha più fatto, esce una cannonata. Ho capito, no, nessuno mi ha mai dato il problema. È questo valvolare che è un po' vecchiotto, dai. Io pensavo anche lì ai condensatori scarichi, no, il trasformatore, tutta roba che ha lavorato un sacco di anni, hai capito, Cla? E comunque vabbè, si fa sentire. Avanti, rubro fretta, riprendi. Bene, bene. Adesso mi hai fatto ricordare un apparato che ho visto qualche anno fa in vendita su internet. Roba vintage americana, bellissima, era celeste, con l'effetto martellato, manopoloni, roba tipo anni 60, valvolare, molto bello, mi è rimasto impresso perché esteticamente era molto molto bello, poi era tenuto bene. Quindi presumo che l'apparato che mi stai descrivendo sia più o meno di quel, insomma, di quell'annata, dai. Oh, dottor Rubio, glielo facciamo vedere il baracchino più grande del mondo su WhatsApp, lo profeta. La cosa, quella della Gemitronic, Claudio. Ah, sì, no, ho detto, ma profeta, ho detto a Gianni Dottor Rubio, ce le facciamo vedere il baracchino più grande del mondo su WhatsApp. Te lo mando, Gianni, lo profeta. Manda. Adesso ti faccio la foto, perché l'ho tolto da qua, e qua non c'è più, nello scaffale dell'armadio, vediamo se riesco a prenderlo del tutto. Quello è il baracchino più grande al mondo. Vabbè, adesso non smontare mezzo a casa per fare una fotografia, futtidini. Pensavo che fosse una cosa più semplice da fare, non ti puni i problemi. No, l'ho tolto da qua perché non c'è più niente, c'è solo il 440 con le due, lui il resto ho già portato via tutto, no? Ci manca anche l'altra base, c'è una base solo che poi smonterò con calma. Ma già te la faccio adesso la foto e poi te la mando. Avanti, doppio rumore, riprendi. Uno dei più grandi baracchini al mondo, c'è solo il tram che ce l'ha Walter, che non è alto quanto è quello, ma è più largo e più lungo, però come altezza, come coso è. Guarda, io ce l'avevo il Galaxy, l'ho dato l'anno scorso perché tanto non lo usavo, nuovo nuovo, messo sopra il DAC, praticamente ce ne volevano due per superare l'altezza. Come larghezza e profondità era uguale, come altezza ce ne volevano uno sopra l'altro. E il Galaxy Turbo? No, il Galaxy Turbo è uguale, già, non cambia niente, sono uguali. C'ha il dissipatore più grande, ma sono uguali, l'ho avuto anche quello io. Sono uguali. Beh, il Galaxy, io ho sempre detto, come baracchino, attualmente in uso, perché lasciamo per quelli vintage come il DAC e tanti altri, ma il Galaxy Atunneco, che è ancora in uso, eccetera, per me rimane come baracchino. Tu Gianni continui a chiamarlo apparato, io lo chiamo baracchino, perché per me è sempre un baracchino, ok? È sempre il baracchino più bello che c'è, come estetica e come funzionamento, perché è completo di tutto. Su quello non ci piove, poi ci sono sono altre radio vintage americane di tanti tanti anni fa, prima di quello, prima del Galaxy, che chiaramente hanno una bellezza rara, una cosa rara, capito? Però io continuo a dire, per me, io li ho provati tutti e tu lo sai, quanto ne ho avuto, quanto ne ho dato, quanto ne ho venduto di baracchini base come Royce, come il console ha avuto il primo, il secondo, il terzo, tutti gli altri, ne ho avuto tanti, ok? Sono tutti belli, però il Galaxy a me rimane sempre il numero uno dei baracchini base per la 27, perché è completo, funzionante, ha tutto, esteticamente è molto bello rispetto ad altri, capito? Su quello non ci piove. No, adesso la faccio, riprendi fra. Gianni, dopo uno per me aggiusti. Questo è quello del valvolare, sto usando un apparato di 50-60 anni fa. Là. Adesso tolgo la mano, guarda, adesso senti l'alternata, la senti? Così è con la mano sul connettore del microfono, non lo so, solo questo è il tuo problema. Adesso funziona tutto, dai, più o meno, pensavo che graffietta, non è perfetto. Si potrebbe provare, se non ci vorrebbe poco, ripeto, ci vorrebbe un attacco dove mettere la mano. Cavo, portare più una massa. Ma è quello il difetto che sta facendo? Io non sento nessun difetto, sento solo la capsula che è morta, nel senso che non ha il radio. Allora, quindi adesso tolgo la mano, senti l'alternata? Invece così ho la mano sopra il connettore, così non fa alternata. Ma lì c'è un microfono normale, potrebbe essere anche la capsula, qualcosa del genere, capito? Non lo so, però non mi sembra così, io manco me ne sono accorto che c'è alternata. Perché stavo parlando sempre con la mano sul metallo, dai. Sul metallo, ma no, è di plastica il microfono. Mano sul connettore del microfono, sullo spinotto, è in metallo, no? Come lo tocco, sparisce tutto. Allora adesso ti sei spiegato meglio. Allora apri il connettore che va al microfono, alla radio, ok? E ti isoli con l'altro isolante, vai a isolarti dove c'è la treccettina di massa, ok? Vai a isolare quella e poi riprova il microfono. Pezzettino di nastro, lo isoli bene, se no lo dissaldi, come fanno tutti i buoni così, lo dissaldi, li metti all'interno della calza, se è libera, li metti un pezzettino di gomma e poi risaldi la punta solo della calza e vedi che non te lo fa più. È da provare, qualche problemino c'ha, vai. E tu fai come ti stai dicendo zio Claudio, vedrai che non trovate il duccio difetto. Lo profetti è arrivata, è troppo in alto perché l'ho messa nello scaffale, perché è talmente grande, l'ho messa lì perché non c'ho posto dentro l'armadio e devo portarla via. Però già si vede che cos'è. Io mi sono avvicinato il telefono adesso, lo sto aprendo. Aspetta che... Cazzo! sono le cose che amo. Queste sono le cose che amo. E mi fa ricordare molto tutta quell'epoca. Sembra un vecchio amplificatore hi-fi di Pioneer, quelli JVC, quella roba di alluminio satinato che andava a quel periodo, molto bello. Adesso vabbè, non faccio i bicciti, adesso prendo gli occhiali e dopo gli do uno sguardo. Comunque è molto bello, molto molto bello. E luce è nuova, trovo una foto messa qua in sala radio, te la mando, non so se ne ho di quella. Vai, doppio rum. Mi raccomando, che più tangente con la famiglia. Sentiamo, buonasera. Ciao, a frappè. Avanti, va. Dai, adesso mi tocca attaccare di nuovo tutto. Ma che... Perché c'è così? Adesso sto lasciando tutto a colpi. Prova, 1, 2, 3, prova. Forse perché non schiaccio bene il mic. Potrebbe essere anche quello. potrebbe essere anche quello, però già la modulazione non è un granché, ma già va bene, dai. Si è uscito, rimetti l'altro microfono, quello da controllare, quindi c'è qualcosa nello spinotto che connette al baracchino, sicuramente. Allora, no, ho detto, se parlo più forte del vicino, va meglio? Sì, sì, sì, però già la capsula è molto in dispersione, nel senso che è consumata e che quindi non... Se si può cambiare bisogna cambiarla e poi isolare bene il connettore che va al baracchino, perché è da lì che dipende tutto. Comunque, che voto dai? Una radio di 4? Come voto ti posso dare sì, 3,5 o 4, non di più. Un po' scarsina, dai, ok, dai. Rimetto l'altro apparato, 5 minuti di pianto. Avanti, super fetta. Diciamo che per quanto riguarda il sottoscritto è un po' da citofono, quel microfono si sente che è roba, insomma, vecchia, usurata e insomma, molto da citofono quel tipo di suono. Però per il resto la radio sembra che vada, insomma, quindi preferivo giustamente meglio prima. Comunque, visto che stai cambiando, vabbè, adesso tornerai all'apparato di prima. Per Claudio, adesso mi sono messo gli occhiali, l'ho vista bene nel dettaglio e devo dire che è molto molto molto molto bella. Cioè, io sono un amante di questo tipo di apparati, ma non solo, vabbè, apparati invece trasmittenti, ma in genere tutto quello che riguarda le apparecchiature audio, cioè alluminio satinato, manopoloni, viewmeter al posto dei LED, insomma, le trovo delle cose veramente affascinanti, molto molto bello. È una bellissima radio quella, c'ho un 6 anni forse, 5 anni. Ho lasciato un vecchio CB qua e ce l'ho sempre io, però è nuova, la coprivo anche proprio di quanto è nuova, è bellissima, nuova, funzionante. Ultimamente l'ho staccata da qua perché ho dato spazio al computer nuovo, quindi ho messo il monitor a posto di quella radio lì perché mi prende molto posto. E poi, visto che stavo togliendo tanta roba, tutta la roba che non mi serviva, ho lasciato solo praticamente il 440, il 430 e un base VU, basta, il resto ho già tolto tutto. Quindi vedi che rimbomba la voce, prima c'era l'altra base che andava a L, l'ho tolta, smontata, già portata via. Ho lasciato una solo, che spero a breve di togliere anche questa, speriamo, no, vabbè. Vai Franco. No, già esci bene sempre, claro. Molto, molto potente, qualcosa la modulazione. Sono ritornato al vecchio, l'altro apparato, dai. No, questo va benissimo. Fra il microfono sempre quello, MC60, 440, a volte accendo il 430, basta, poi ripeto, c'ho 820H, che ho lasciato quello base, gli altri li ho tolti tutti. Tra l'altro un base VU la sto anche vendendo, la sto alterando perché ho tre basi VU, tutte tre uguali, più una monobanda che è 275H, una la do, tanto non ne faccio niente, sempre spenta, la do. Il resto tengo tutto quello che mi serve e vediamo se riesco a fare una piccola, un piccolo posto da qualche parte per non isolarmi, perché anche lì sono per isolarmi, un piccolo posto con questa base che ha fatto Giulio, questo sistema eccezionale che ha fatto Giulio, queste due basi, per rimettere le cose come erano, ma non mi sto preoccupando, fra sin a giugare, se no già rimane tutto così, intanto adesso arriva l'estate, quindi non sto pensando a fare niente, devo pensare a godermi l'estate. L'anno scorso me l'ho goduto a metà. Oh, se ti serve una mano fai un fischio. se non c'è da lavorare in altezza, che non c'è in altezza eccessiva, perché io un po' soffro, No, beh, fra, di là te l'ho detto, è già tutto si è sistemato. Tutto sistemato, nel senso che non devo mettere niente. Qua è già tutto organizzato, perché deve venire Andrea con Massimiliano Bulldozer, che hanno braccia e spalle, e bisogna abbassare e smontare le antenne e metterle a posto. Un altro devo fare, poi la mantova e le altre antenne, quelle già me le smonto io, che faccio. Però lì ho bisogno una mano, perché se sgancio il blocco me ne scende l'antenna sopra la testa e mi ammazza, quindi bisogna mantenerla e farla scivolare piano piano per poi arrivare all'altezza d'uomo e staccare tutte le radiali, se non faccio danno, capito? E basta, quindi non te lo dico neanche perché siamo a 40 metri d'altezza, 45 esattamente, quindi non te lo dico neanche. Se tu mi segui la mano dall'altra parte, già ti avviso, fra, già siamo in terra, no? Non c'è problema, ma ti ripeto, non c'è niente in programma, niente, proprio bannutami. Avanti Gianni. Eia, Asco, curiosità, quanti watt ha di uscita quella radio che mi hai fatto vedere? Quella ne ha come il Galaxy più o meno, ne ha una quindicina in AM, 25, 28 in banda laterale. KK, quindi anche banda laterale? Sì, alle bande laterali esce molto molto bene, centratissima. Non ha l'FM, essendo una radio americana vintage, non ha l'FM. Però ti posso garantire che in AM, se io te la, adesso mi viene male perché è anche pesante, tra l'altro, se scenderla da lì, perché l'abbiamo messa io e mia moglie, per poco ci tolchevamo il collo. Se no, se era qua te l'avrei fatta sentire col panel più 3, tu non ti accorgi se io sto usando questo microfono o quello là. Kappa, ci credo. Va bene, no, molto, te l'ho detto, molto bella. Mi piace proprio il tipo di estetica, le vecchie manopole grandi, l'alluminio spazzolato. Quella che ti stavo dicendo io in precedenza, che avevo visto su eBay, è a livello temporale, forse è una radio più vecchia, con il lamirino sopra, stile martellato, verniciato, sì. Sicuramente una radio più vecchia e niente, no, adesso giusto a livello di comparazione sto dicendo, niente, no, ti ripeto, a livello di gusti mi piacciono molto quelle radio così. No, molto bella, hai visto gli strumenti che ha, faccenghi, c'è un Smith, poi c'ha tutti gli strumenti, c'è il Rosmetro Watt, metro il... La, perché c'è lo taglio finale a valvole, quindi c'è il controllo della tensione delle valvole col modulometro, lo smitter, bello grande, c'è dei bei strumenti, belli grandi, belli, tutti illuminati, se la vedi accesa è favoloso, tutti illuminati, belli, bianchi, molto molto bella, luce, no, l'ho messa lì perché avevo bisogno di spazio per mettere il monitor del computer, che ho lasciato il computer perché mi serve, quello sarà l'ultima cosa che smonterò, perché ho messo la fibra da poco e quindi devo tenerlo in funzione per provare. Va bene, ok, ce ne sono tante cose belle, anche lì la lampada, se ti faccio la foto una cassetta che c'ho ti metti a piangere già, di buona PD Visano, dentro la cassetta 8 baracchini, nuovi, ma baracchini, di cui ce ne sono due colte, che tra l'altro è tutta roba in vendita anche quella, tipo l'87, il Typhoon 2, strumenti, microfoni, più 3, più 4, Turner, di tutto, di tutto, ZG, di tutto, una cassetta piena di roba, tutta funzionante, per carità. Avanti fra. Ehi, ritornando al suo tetto, come ha atterrato o a tegole? Cioè in pendenza è? Ma qua è questo di carbonati. E dove devi smontare? No, non ce n'è di tegole, no. Ha un c'è la mansarda, quindi apro a finestra, esco, è leggermente un po' in pendenza, poi c'ho la scala, una scaletta che è agganciata praticamente alla mantovana fatta dal fabbro, dove salgo ancora più in alto e sopra è tutto in piano dove c'è il traliccetto delle direttive, capite? Ah, ho capito, quindi lavori diciamo con i piedi in un piano buono, dai, non sei sulla pendenza. No, no, è in sicurezza, non c'è nessun problema, di pericolo non ce n'è assolutamente, è che sei molto in alto, si vede la strada, quindi non devi guardare giù, perché una station wagon potrebbe diventare anche una 500. Cazzo. Vabbè dai, purtroppo io da quando ho avuto quell'incidente in macchina qualcosa mi si è spostato all'interno delle orecchie e ho meno equilibrio rispetto a prima ero più svegliato, più figurati, io montavo infissi in alluminio anche a grattacielo, verande, me le portavo su con le corde, poi uscivo fuori a sigillare, nulla, adesso invece non lo faccio più. Fra, anch'io quando ero ragazzo ti posso dire che quando ero a Lenichem sono salito anche la fiaccola a cambiare i piattelli dei cestelli, quindi non è un problema con il cestello dell'autoscala dei cermelli, quindi qua non soffro, però ultimamente se mi avvicino molto al cornicione per legare qualche tirante o qualcosa, un po' gli occhi mi si annebbiano, capito? Perché è sempre un'altezza molto molto alta. Però ci lavoro tranquillamente, l'importante è che non sei mai solo, capito? Infatti sto aspettando perché potrei già iniziare io a smontare, a fare, avrei messo Dacia, tutto così, appena mi libero di questi lavori sto facendo, vengo io e in un paio d'ore facciamo tutto. E così sto facendo, capito? Infatti ho staccato anche il controbox, l'antenna è ferma a nord, rimane lì, ho tolto il controbox, ho tolto tutto, non c'è più niente per poter muovere le antenne, ho staccato il cavo, tutto. È ferma lì a nord e lì rimane fino a quando non viene Andrea, la smontiamo. Fra, l'altezza non è buccia di gioca, meglio dare sempre del lei, è come la velocità, no? Delle moto, delle macchine, bisogna stare sempre molto attenti, per te e per gli altri, così sono le altezze, le insicurezze, le difficoltà, bisogna sempre dare del lì, vai già. E finirò. Finito a capo e bugne. No dai, buonasera a tutti, scusate se sono entrato a gamba tesa. Allora, mi stavo succando un po' di battiscopola. Ti ho anche nominato, l'avevo sentito. Sto aspettando ad Andrea e a Massimiliano, quando arriva il tempo bello noi buchiamo tutto. Ciao Massimiliano, un abbraccio. Ehi, sempre prendici tu, KK, vai. Se vedi il capolavoro che sta facendo Massimiliano, fra tutto nuovo lì a casa, ne ha buttato tutti i muri, sta facendo tutti i muri a nuovo, adesso sta piattando anche il battiscopo, riprendi. Ciao Massimiliano, ben entrato in frequenza. Ehi, c'è sempre da fare. Ecco chi erano, i muscoli erano i suoi allora. Riprendi Gianni per i saluti. Buonasera Massimiliano, ben sentito. Sempre da fare, va bene così. Stavo pensando che, adesso non so se Giulio e Doppio Rum sono ancora in ascolto, sono ancora fuori. E niente, vabbè dai, giro per Claudio. Claudio. KK, no, Gianni ha chiuso, Giulio è uscito a fare la spesa e tu rientrava dopo. Franco, Massimiliano non ha uccello ma abbraccia. Claudio. Non lo conosco, mi sai, in verticale. Meglio, ci sarà l'occasione. No? Appena organizziamo questa prova di fainè. Massimiliano c'ha le braccia quanto le cosce tue o fra che sei più magro di me, le cosce. Ma dove andate mai due birastri? Uno che ha un mestiere che lo porta, non ha problemi a fare palestra, già fa di palestra da un chiccio mezzo che va tutta la dita, trucco. Lui lavora sullo scavatore, capito? C'ha le braccia da paura. E quindi serve lui e l'altro Big Jim, Andrea, Oceano, se sia all'ascolto. Ti saluto, che è sempre qua in ascolto sul 10. Capito Efra? E loro due ci vogliono. Anzi, ha detto Massimiliano, ma trovi che mi incazzo, vengo a tenere a fare una giura. Se vuoi fare la bella lo scavatore. Se riesco a mollare quel bullone, sì. Allora vuoi tu quel bullone, la matta te ne va, mi se lo vuoi chiamare a stringerti una staffa, mi. Staffa è fatta dal fabbro, da piattina, la cantoria di chiscia, la gira, la guatta, non lo so, insomma, delle staffe micidiali, con bulloni di chiave da 17, mi ha piegato il tubo, fra. di Riccardo, dai. Se sembrava spalato il caffè bullone. Ma l'avevo finito di evitare. Mi giro, vedi il tubo stai piegando. Ha tutto piegato il tubo, la mazza che te ne vai. Dove dai la mano a stringitira? Ma gli scavi li fa a mano o usa le leve dello scavatore? Ma ci vediamo, se non vedo dopo tu ti metti le mani in testa. È forte, dai, come vuoi dire. Ne ha di forza. Vabbè, anch'io uso macchinario, no, è tipo un scavatore, però cammina su rotaia. Ma io ho capito, Fra, ma io non so, ma tu con chi lavori, non si può dire? Come con chi lavoro? Tu lavori per le ferrovie, giusto? Ma con la Salcer? No, ferrovie. Ah, proprio ferrovie. Ma perché noi lavoriamo molto per le ferrovie, capito? Però per conto della Salcer. Salcef, Cavatorta, da noi lavorano, adesso c'è Zanolla per esempio, riconosci Sandro Zanolla? Noi facciamo turni di notte, quindi ogni tanto viene un ferroviere alle 4:30, controlla se è tutto a posto e poi ce ne andiamo. Ma è ferroviere dello Stato, FS, RFI? Sì, ferroviere dello Stato. La linea Sassari-Ulbia, Ulbia-Cagliari, Sassari-Cagliari, siamo un po' dappertutto. Ma utilizzi anche caricatori, quelli che camminano su rotaia? No. Io sono a terra, sui cingoli. Ho capito. No, noi usiamo invece quelle che camminano su rotaia, che, come si dice, sono scarrellabili. Sì, ho capito. Aspetta, saluto anche a Gianni, che non l'ho salutato ancora. No. Va bene, là. Vi stavo un po' ascoltando, ma non potevo entrare, ma io ho tutte le mani ben collate e cose, e adesso mi sto riposando 5 minuti e poi mi porto la doccia, di arrivarcia. Anzi, mi faccia così, piano piano, piuttosto quella porta che devi mettere dove c'è nei gradini, quella è un bel grande, cosa fai, a due ante o lo stringi un po'? No, lì lo stringo e metterò una porta scorrevole con un binario esterno, capito, che scorre all'interno della camera. Però la stringo, la faccio da 90, e cosa lascio? La porta da 120, no? Non fa. Mi stavo finendo tutto, dai, diciamo che voi bianchinate e pulita, va. Adesso non so che colore se la vuole scegliere mia figlia. Adesso vediamo un po' se glielo faccio spattolato, se glielo faccio sabbiato, vediamo come la vuole. Se no, gli do quel bisello e se la va dietro. Sì, scegliamo anche il coraggio, Gaia. No, ma ci vediamo, un colore che non glielo fare molto scuro, capito? Perché loro magari dicono, papà, rosa, giallino, celestino, vabbè, celestino no, che femmina. Però lei magari sta su più quei colori. Non glielo fare molto scuro, perché sennò magari è troppo buio, capito? Un colore che è bello, che però piace a lei, ma che abbia anche luce, capito? Vai Gianni Profeta per salutare a Biggie Jim. L'ho salutato anche prima, ben entrato Massi, buon lavoro, come diceva qualcuno. Sì, adesso mentre stavo ascoltando l'ultimo passaggio che ha fatto Franco, visto che praticamente le finestre di casa dei miei danno proprio sulla stazione, ogni tanto vedo qualche mezzo su rotaia, sia delle ferrovie dello Stato, sia dell'ex strada ferrate sarde, mi ha dato anda e veni, e niente, è giusto per quello. Capo, adesso c'è l'impresa che sta facendo dei lavori, poi ti toccherà fare anche qualcosa di notte perché fanno le regolazioni termiche del binario, cioè ormai il binario è tutto saldato, le rotaie sono tutte intere, capito? Quindi se ne sa qualcosa Massimiliano, così. Beh, a voglia, se il suo treno lungo 200 metri, o 600, quanto è? E noi facciamo, le regolazioni le facciamo da 500 metri, campate da 500 metri, si taglia la rotaia, si mollano tutti gli appoggi, tutti i bulloni, e poi si simula la dilatazione, diciamo, che ci sarebbe in estate. Quindi tu tiri la rotaia con i morsetti, tiri, con un calcolo matematico, una formula, poi quando c'è il coefficiente giusto, tagli il ferro che c'è in più, saldi e stringi tutti i bulloni con la dinamometrica a 18 kN. Sì, già li ho visti facendo. Mi ha adesso iniziamo noi, il primo di aprile iniziamo di nuovo gli sbarcamenti lì verso Monti, allora ci abbiamo Monti, Chiriarda, tutta quella zona di Berchita, la stazione di Olbia, poi ci abbiamo anche Confalanci. State facendo anche modifiche sul tracciato? Sì, sì, stiamo sbancando un po' che però le curve, quelle più pericolose, le stiamo allargando, là, diciamo, buttiamo giù tutto quello che c'è da buttare giù e poi addrizzeranno il binario un po'. E cambiano il raggio per aumentare la velocità, allargano il raggio di curva? Sì, sì, sì. Quindi magari avete fatto da noi, scendendo a Molafa, noi abbiamo curve a raggio 100 ancora, figurati. E poi c'è da fare anche un lì verso Macomercio, abbiamo la galleria da fare, Bonova, quelle zone lì, e c'è un grosso lavoro, va. Ce n'è. Beh, signor, io vado che mi faccio una doccia, va. Lascio acceso qua, vi ascolto, ma sicuramente non riprendo più perché dopo mi metto nel divano, molto probabilmente. Ora vado subito, anche io voto le ore di lavoro e poi quando arrivo a casa faccio continuato, capito? Mi ricordo il collante, mi consumava le dita facendo le truccature. E infatti mi ha bucato il dito. Posso fare così, ma il tuo collante l'ho già sentito. Infatti, diciamo, amici, un attore, vale, tutti di stampare, ho detto, ma cosa c'è i giochi? No, un collante. Pensavo che fosse un materiale più ecco, invece dici che è pericoloso. No, perché abbiamo il vizio di passare il dito nelle fughe, capito? E te ci consuma il dito. Vabbè. Ciao, non ci vedi, dai, ci aggiorniamo, anche telefonicamente, va bene, buona doccia, buon tutto, salutami a Daniele Argaia. Vai Gianni, riprendi, io poi, che ore sono? Altre 10 minuti e poi anche io stacco, vado a sistemare il cane, poi un po' di TV a cena, anch'io, dai, riprendi Gianni. Kappa, per Franco, sai niente dei lavori che stanno facendo sulla tratta Sassari Alghero? Dimmi, cosa ti interessa? No, voglio dire, siccome qua sotto casa ci sono i bus in affetta, che stanno i pullman sostitutivi, so che insomma la tratta è chiusa, che stanno facendo lavori. Sì, ancora è chiusa, ancora ci sono da collaudare i ponti in ferro, le travate metalliche sono da collaudare ancora, stanno facendo lavori di ricalzatura e di allineamento binario, dai. Break. Ok, avanti break. Ok, sono rientrato, però purtroppo volevo lasciare, dai, sono rientrato e sono con mio fratello, per cui mi dispiace, scusate, ma non ho potuto fare questo con voi stasera, ma dovevo fare una commissione, sono uscito con mio fratello, adesso siamo rientrati e lui è qua a casa, per cui non posso fare più a baracchino, probabilmente un venerdì andiamo a mangiare la pizza la mia famiglia con la sua, adesso vediamo, dai. Comunque vi ringrazio lo stesso per il questo. Saluto a tutti, ciao Franco, ciao Gianni Rubrefetta, se ci sei ancora, poi Claudio e gli altri, non so se ci sono ancora. Comunque saluto a tutti, dai, e ascolto il finalino e poi chiudo definitivamente, dai. Riprendi Claudio se ci sei. Sì, giù, sono qua, infatti ti ho nominato poco fa, che eri andato a fare la spesa. Va bene, allora ti saluto, ci aggiorniamo domani, intanto anch'io mi ho un altro passaggio e poi chiudo, sicuramente anche Franco e Gianni, sono già le 8:15, oggi mi siete molto. Vai Gianni lo profetta per Giulio, poi vai per Franco. Ehi, ben sentito giù, dai, ci si aggiorna alle prossime. Buona serata e buon proseguimento. Anche io adesso mi finisco di fumare la sigaretta e sarò tutto. No, ma adesso giusto così per curiosità, visto che mi hai detto che la Forine, che sei in ferrovia, no? Ma a livello aglio e olio, per quanto ne hanno ancora, non lo sai? Senta, un attimo che saluto a Giulio, buona serata, buona pizzata e alle prossime, non ti preoccupare, siamo qua. No, ancora non si sa, stiamo aspettando questi collaudi ancora delle travate. No, dico niente di particolare, giusto per curiosità, visto che ci sono i pullman sostitutivi, quindi ho immaginato che ci fossero dei lavori, visto le macchine che stavano muovendo. E va bene, dai. Ne approfitto del mic per salutarvi ragazzi, perché dai, sgancio anch'io, salutoni a tutti, grazie a QSO, ci aggiorniamo alle prossime, salutoni a Franco, salutoni a Claudio e buona serata a tutti, ok, bye bye. Papà, ciao Gianni, di nuovo anche saluti per Giulio e ci sentiamo domani se Dio vuole, vai Fra. Kappa, ciao Gianni, ben sentito ancora, alle prossimine, buona serata anche a te. Sì, se non sbaglio ci deve essere anche una partita adesso, Okra. Non so, perché il Barcellona è il... contro Lyon ha giocato ieri, ha vinto 5-1. Il Bayern Monaco contro il Liverpool ha giocato ieri. Non so che cosa c'è oggi. Non ho controllato niente, la verità. Mi sa che alle 7 c'era... Chi c'è in Coppa UEFA? La Fiorentina, guarda, veramente. Comunque c'è una partita di... alle 7 e una alle 9 dell'Inter. Ah, l'Europa League c'è oggi, hai ragione. Sì, Europa League. Non mi ricordo però se è la Fiorentina o... Chi ci abbiamo ancora in Europa? C'è il Napoli, l'Inter. Poi chi c'è? Non so. No, la Fiorentina no. Fiorentina no, allora c'è la finale di Coppa Italia, Fiorentina, chi c'è? Boh, non lo so, guarda, non ho seguito niente quella roba lì, ero talmente preso dalla Champions che non ho seguito niente. L'Inter pensa ci sia in Europa League stasera. Sì, ma mi ricordo che erano due le squadre italiane, una vabbè l'Inter me la ricordo, alle 9, l'altra la danno al canale 8, alla 8 la danno. Al canale 8, ma già dalle 7? Sì, una alle 7 e una alle 9. Stavo attendo a vedere il canale 8, ce l'hai a portata di mano? Sì, ce l'ho parete qua in stanza e loro ce l'hanno nel salone, grazie. Io qua c'ho un 36 e loro ce l'hanno un 46. Sì, mi lo sto accendendo, vediamo. Canale 8. Ce lo vediamo il volume. Aspetta, mettiamo all'otto, vedi? Oh, a vedere. Dovrebbe essere finito il primo tempo però, forse c'è la pausa. Boh, piace bene se c'è la pausa, io vediamo. Il suo processo è andato a 3-4. Quindi lui si compromina. Guarda, 5. 6. 6. Taglia 1, non c'è niente. 7. Sì, c'è la pubblicità. Inter, questa sera alle 20:30. Alle 20:30 qua lo danno, sull'otto. Sì, tutte e due sulla otto sono. Una dovrebbe essere adesso in pausa tra il primo e il secondo tempo, perché se è iniziato alle 7 è finito il primo tempo. Ma se c'è la pubblicità, vediamo chi sta giocando poi. Hai fatto bene a dirlo. Perché... No, una è già finita, forse. No, qua ce n'è una sola, stiamo andando sull'otto. Adesso c'è il programma quello della cucina, Fra. E allora, boh, mi hanno detto male, magari ne danno solo una, danno solo quella dell'Inter. Bella rimota, Padova, la Juve, l'hai vista, sì, sicuramente. Bella rimota, bella partita, forse la partita più bella di tutta la sua carriera. Ha fatto anche una bella partita l'anno scorso a Madrid e poi chiaramente mi stava dicendo 3-0 e ha vinto 3-1, però col 3-1 passava il passatore a Madrid. Questa è stata una bellissima partita, azzeccata, con voglia di giocare, con forza, con testa, con tutto, tecnica, tutto. Speriamo che vada avanti. Adesso viene il bello perché c'è già il Barcellona ai quarti, c'è il Liverpool ai quarti, c'è il Manchester City ai quarti, 7 sono me. Adesso bisogna vedere le altre, però sicuramente non sarà una passeggiata ai quarti di finale. Oh, questi livelli faranno temere tutte, secondo me. Vabbè, ma la Juve non è che teme nessuno, come gli altri non temono la Juve, però loro sanno che con la Juve c'è un giocatore che fa la differenza, come ha fatto sempre con Real Madrid, e ne abbiamo visto i risultati, perché Real Madrid è il primo anno che esce dalla Champions senza Cristiano Ronaldo, quindi giocatore come Cristiano Ronaldo per vincere la Champions, perché ci ha già provato con Higuain e non c'è riuscita, ma ha fatto la differenza, cioè ha fatto la differenza perché non ha preso gol, perché ha vinto 3-0 in casa, che era l'obiettivo proprio che doveva realizzare. E chi l'ha raggiunto l'obiettivo? Cristiano Ronaldo, assieme a tutti gli altri naturalmente, però lui gli ha messo dentro 3 gol, quindi... No, non ve l'acquisto, una potenza, A parte, vabbè, come immagine, si pensava che fosse un po' già grande in età, invece sta dimostrando che c'ha un bel carattere, sì, c'ha un bel piede, c'ha tutto, è un giocatore, un top player, come si dice, un giocatore completo, c'ha testa soprattutto, è molto freddo, ragiona bene. No, ma è un signore, poverino, io... Quando l'hanno buttato fuori che non aveva fatto niente si è messo a piangere, come si fa? Si è preso le rete in campo, prende tanti di quei colpi, non si cazza mai, non si gira, è molto, molto umile, molto, molto tranquillo, anche perché lo sa che in Italia non ci mettono molto a buttarti fuori per una cazzata, capito? Quindi lui l'ha già provato, ha toccato la testa a uno, come a dire dai alza che non ti ho fatto niente, e Guido si è caduto a terra e ha detto guarda tirare due liberi. Ma come si fa? Cioè quella è stata la cosa più brutta che hanno potuto fare a un giocatore di quei livelli, capito? No, a me piace molto giocare, ma non perché sono juventino, mi piace perché sta tirando sulla squadra, sta facendo sfogliatoio, è molto attaccato, peccato che non parla bene, non fa vedere nulla l'italiano, se iniziasse a dire qualche parola in italiano forse sarebbe anche divertente. Purtroppo questi campioni, molti anche nell'Inter mi ricordo, molti avevano un po' di difficoltà a parlare italiano, però era una brava, brava, ci passi sopra a queste cose. No, bravo giocatore, davvero. Per me, assieme a Messi, assieme ad altri giocatori, è il giocatore più forte al mondo, non penso che ce ne siano altri. C'è una grinta favolosa, non è ragazzino, Non è ragazzino, un fisico ancora da paura, è molto... bravo. Va bene Franco, dai, io ti saluto, Filippo sta venendo qua, io no, vieni Ciccione. Lui quando vede che io non vado, la sciata, viene lui a dirmi, oh ma non ti mario e buttami a fare la pipì. Dai Fra, ti saluto, così poi mi siedo qua e mi guardo, intanto anche noi ci abbiamo pizza stanotte. E quindi mi siedo qua, mi mangio la pizza e mi guardo la TV. Riguardo questo Inter che vince ma non convince, vediamo se riesce a tirarne piedi in Europa League almeno, perché il campionato si è fatta fottere dal Milan e non lo prende più il Milan, al terzo posto se lo tiene il Milan oramai. Speriamo che non si vari al quinto posto, perché se no non fa neanche l'Europa League. Vabbè, ti saluto Fra, dai, un abbraccio, salutami ad Anna, Carlo, anche da parte di Anna e di Ladia, già le intende, sto provando i tappetti per portare in campagna, ma non ti rampi in tutto. Ci sentiamo al domani Fra, se coincide, dai. Campo, la voce un po' di tempo, fa piacere sempre ascoltarti, dai, anche tu un abbraccio in famiglia a tutti, e alla prossima, dai. Buona serata, buona partita, buon tutto. Ciao. Ciao Fra, fatti sentire, tanto io la sera sono sempre qua, più o meno a quell'ora che ti ho risposto sono sempre qua a casa, fa piacere. Ciao, alle prossime, saluti a tutti quelli che sono in agguato, ciao. Ok, ciao.